Buon pomeriggio a tutte e tutti. Come ogni martedì pomeriggio che si rispetti, c'è l'appuntamento con la saga del Remuschio. Siamo arrivati al quarto capitolo ed è il primo capitolo scritto durante questa quarantena, quindi con la nuova modalità di smart writing, da una parte all'altra dell'oceano. Niente, i nostri eroi sono entrati dentro l'Amhecca e vediamo un po' come si svolge la loro avventura. Vai con la sigla. Ci sono storie di un passato tanto remoto che lasciano un segno tanto profondo da venire dimenticate o scambiate per altre storie. Storie di un passato ben più recente, che confondono chi cerca di riesumarne il passato remoto e si ritrova a suo mal d'auto a leggere storie meno remote e molto, molto meno gremite. Qui stiamo, come d'autunno sugli alberi le spoglie, raccontando un passato che il tempo raccoglie, cercando le stringhe di quel che ci volle per dare alle folle gremite il suo folle. Viva il Remuschio, un po' donna e un po' maschio. Viva il sarcastico re col suo lascito. Onirico nano, rossiccio e robotico, gioca col logico nel mondo più illogico. Capitolo 4. Porto Anziano. Fino a qui la storia può sembrare una serie sconclusionata di eventi, e forse è proprio così. Da qui in poi, da questo momento e da questo luogo, iniziò una rapida concatenazione che porterà il mondo che tutti conosciamo a essere il mondo che tutti conosciamo. A volte mi chiedo cosa sarebbe successo se fossero entrati in porto dalla porta principale con la barca dell'uomo che giaceva riverso nella sua propria effervescenza. Ma per fortuna o per caso, Althrow conosceva molto bene gli ingressi alla città, quelli ufficiali e quelli clandestini. Non presero quindi le meravigliose fognature presidiate giorno e notte da una possente vigilanza, bensì presero la via meno percorsa per entrare all'Amhecca, gli ingressi usati dai gangster dei clandestini, squali di portoni in marmo bianco, sempre pulitissimi e ben illuminati. Superati gli ampi corridoi affrescati del canale in cui era entrato il veliero muschiato, si ritrovarono in una baia tanto ordinata, pulita e composta da essere quasi fastidiosa se comparata alla mucillagine che regnava sovrana fino a prima del sontuoso e segretissimo ingresso. Camminando tra la folla, lo Stremingo si sentiva stranamente a suo agio. Era in una città sconosciuta, clandestinamente. Era ancora accompagnato dal malassortito gruppetto che con poca personalità lo seguiva ovunque andasse, in quanto è decisamente lui il personaggio principale di questa fase del racconto, e nonostante ciò si sentiva in qualche modo protetto. Guardò fugacemente il neonato che incredibilmente dormiva beato in braccio a Dimitra, che dormiva beatamente, ancora più incredibile, in sella al bue gazzella che dormiva beatamente mente. E questo già era più normale, in un ridicolo carretto colorato con due ruote dallo stesso lato che si trascinavano faticosamente appresso da giorni. Tutti erano sfiniti e affamati. Passò lo sguardo sulle bancarelle che affollavano il molo cercando cibo e si rese conto di qualcosa che non tornava anagraficamente. «Ma qui sono tutti vecchi!» esclamò sgarbatamente tra sé. «Non essere scortese, si dice anziani, adultissimi o acerbi», si corresse. Si avvicinò ad Altrow, che li stava guidando verso quello che sosteneva essere un rifugio sicuro, e si affrettò a chiedere spiegazioni. «Questo è Porto Anziano. Non troverai un covo di senilità e semolino peggiore di questo.» «Porto Anziano?» domandò imbarzottito lo Stremingo. «Sì, il quartiere più anziano di Lamhecca», continuò Althrow, mentre in sottofondo iniziava a sentirsi una musica di violini tipica dei flashback. «Un tempo la città era molto diversa, si dice. Fu costruita in pochissimo tempo da un gruppo di giovani. E per i primi 20 anni tutti vivevano in pace e collaborando. L'economia era florida, l'agricoltura era indiana e l'industria nevada. Non c'erano conflitti se non per ragioni futili, personali o gastronomiche, che solo raramente terminavano senza scorrimenti di sangue. E si dice che non vi fosse in quel momento una città tanto umida in tutto il continente. E poi? Cos'è successo? Chiese ingenuo e stralunato il nostro storpio amico, guardando altro pisciarsi in mano e tirandosela in faccia per rinfrescarsi e nascondere le lacrime di commozione. Poi c'è stata l'epidemia. Dal nulla, un giorno la gente ha iniziato a stare male, a indebolirsi, a lamentarsi, a diventare nervosa, confusa e stanca. Non si capiva cosa fosse. I medici e gli opinionisti senza formazione, ma con un sacco di cose da dire, che avevano scoperto perché a loro non si fa, erano allo sbando. Non uccideva, non lasciava segni evidenti se non rughe e capelli bianchi. Chi si infettava diventava un veicolo inconsapevole e pericolosissimo. Era un male quasi asintomatico, brutale. I contagiati sapevano di esserlo e ciò gli rendeva la vita impossibile. Da quel momento si è deciso di dividere la città in due e rinchiudere qui tutti gli infetti, sperando così di fermare il contagio. Ma se questo è il quartiere chiuso, noi cosa ci facciamo qui allora? Non è pericoloso, non rischiamo di ammalarci? Chiese timoroso lo stremingo. No, non preoccuparti, la malattia non attacca le persone così giovani. Prende le persone solitamente di più di 40 anni e ne deteriora la mente, lo spirito, il corpo e la prostata fino ad ucciderli, in circa 30-40 anni di degenerazione. Inizia a vedere un pelo bianco, poi la stanchezza dopo pranzo, poi i peti, poi le bestemmie alla briscola, fino ad arrivare a morire, serenamente nel proprio letto. Inorridito, lo stremingo si coprì la faccia con il gomito, come se questo lo proteggesse dalla malattia, e iniziò a sentirsi come un pesce fuor d'acqua, una razza d'uccello tipico delle sue isole di origine. E funzionò? Chiese. Più o meno, fu la risposta a mezza bocca della loro guida. Si è sicuramente rallentato il contagio, ma ogni giorno ci sono nuovi casi. Alla fine, presto o tardi, parrebbe prendere tutti. Ogni giorno qualcuno viene chiuso qui nella città anziana. Tutta questa senilità non poteva che fargli tornare alla mente la vecchia nel gergo, con la sua saggezza e le sue eccitanti braccia flaccide. Mentre si asciugava le lacrime col dorso del gomito, si accorse di un particolare curioso. In coda fuori da Movelo Buco Sto Ballone, quello che aveva tutta l'aria di essere il più frequentato negozio di giocattoli di Porto Anziano, aspettava un trio malassortito quasi quanto la loro combriccola. Sembrava una famigliola, ma c'era proprio qualcosa che non tornava. Quello che hai sotto gli occhi, disse Altrove, è una delle conseguenze più drammatiche della pandemia. Mio padre ascoltava attento mentre si grattava la fronte con la punta del gomito. Quando i primi abitanti di Lamecca iniziarono ad ammalarsi, alcuni di quelli ancora immuni svilupparono un male complementare. Iniziarono a provare un forte desiderio sessuale, vedendo tutte quelle rughe, quei faticosi passettini e quella rumorosa raucedine. In altri casi, questa sessualità trovava uno sfogo con il consenso dell'ammalato o dell'ammalata. Da quei reumatici incontri iniziarono a nascere piccoli esseri immondi, che già dalla nascita presentavano i sintomi di quella tremenda malattia. Rughe, occhiali sulla punta del naso, babucce di pile e ranteghino già di prima mattina. Anche se si sentiva vagamente chiamato in causa, a causa del suo amore tutt'altro che platonico per l'omai di partita vecchietta, cercò di allontanare quel pensiero per tenere il passo della loro guida che zoppicava veloce davanti a loro. Mentre si addentravano tra le viuzze pulite, un raggio di sole riflesso passò sul viso del neonato, che si svegliò piangendo. Lo stremingo lo prese dalle braccia di Dimitra, che invece dormiva ancora beata, e lo strinse nei gomiti per calmarlo. Si accorse che il bagliore proveniva da appena sopra uno dei trabattelli che circondavano il quartiere. Lo emettevano delle figure che stavano in piedi, tenendosi le mani dietro la schiena. Indossavano dei gilerini arancioni, catarinfrangenti e un caschetto giallo. Altrove, al contrario del suo compare, che ora giaceva senza vita nella stiva della sua barca, perdeva la pazienza con facilità e dava subito in escandescenza. Per questo lo stremingo si trattenne da fargli l'ennesima domanda da novellino e si limitò a guardare. Quegli strani individui sembravano osservare la vita nel quartiere compiaciuti e ogni tanto si scambiavano a vicenda dei cenni d'intesa. «Uè, Veget, se che è che rebelot là in mezzo?» urlò all'improvviso uno di quelli. «Vedi di mettere a posto. Non hai ancora capito che in strada deve essere tutto in perfetto ordine. E meves?» Con un oppala, aggraziatissimo, l'abitante di Porto Anziano si alzò e si mise all'opera bofonchiando tra i denti. Che i magut dell'ostia gamma e niente fa che sta in scia fai cumenda. Altro all'improvviso si fermò e con sguardo furtivo disse: Siamo arrivati. Superato questo cantiere, entriamo dall'altra parte di Lamhecca. Per prima cosa dovremo cospargerci di melma per confonderci tra la folla e poi ci dirigeremo verso il mio rifugio sicuro. Un'ultima cosa, concluse, importantissima. Qui mi conoscono come Ben. Altrove è un nome da evitare da qui in poi. Tutti dovevano essere ricoperti di melma. Il neonato, che sembrava apprezzare quel disgustoso trattamento, Dimitra, il bue gazzella volante e lo Stremingo, per il quale il compito si rivelò essere tutt'altro che semplice vista la sua carenza di mani. Ora sembravano in tutto e per tutto una sgangherata comitiva di lamecchiani. Dopo una buona mezz'oncia di cammino si ritrovarono di fronte a una putrida baracca, alla quale era malamente appoggiato un'insegna fatiscente che diceva «rifugio sicuro». Erano arrivati a quella che sembrava essere, con buone probabilità, l'ennesima sorpresa di un fato beffardo, che avrebbe dato loro un nuovo tassello di un destino già scritto e un'incalzante spassosità. Quello che avete appena ascoltato era il quarto capitolo della saga. L'appuntamento è a martedì della prossima settimana, sempre alle 15, per una nuova puntata della saga del Re Muschio. Ciao a tutti, ciao a tutte e buon pomeriggio.